Capitolo 19. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma come li vide, si alzò per andar loro incontro. E si prostrò con la faccia a terra e disse: «Signori miei, vi prego, venite a casa del vostro servo, fermatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino». Essi risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che essi fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro». Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: «Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che io ve le conduca fuori, e voi farete di loro quello che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto». Essi però gli dissero: «Togliti di mezzo». E ancora: «Quest'individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli». E premendo Lot con violenza, s'avvicinarono per sfondare la porta, ma quegli uomini stesero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. Quegli uomini dissero a Lot: «Chi hai ancora qui? Fai uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore e il Signore ci ha mandati a distruggerlo». Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: «Alzatevi da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città». Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: «Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma egli indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: «Metti la tua vita al sicuro. Non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai». Lot rispose loro: «No, mio signore. Ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi. È piccola e lascia che io fugga lì. E non è forse piccola? E così io vivrò». E quello rispose: «Ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto». Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore. Guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura. Ed ecco, vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò da Abramo, quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte insieme con le sue due figlie, perché temeva di stare in Soar, e si stabilì in una caverna, egli con le sue due figlie. La maggiore disse alla minore: «Nostro padre è vecchio, e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi, come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino a nostro padre, e corichiamoci con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre». Quella stessa notte diedero da bere del vino al loro padre. La maggiore entrò e si coricò con suo padre, ed egli non si accorse quando lei si coricò né quando si alzò. Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: «Ecco, la notte passata io mi sono coricata con mio padre. Diamogli da bere del vino anche questa notte. E tu entra, coricati con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre». E anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò né quando si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questi è il padre dei Moabiti, che esistono fino al giorno d'oggi. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ammi. Questi è il padre degli Ammoniti, che esistono fino al giorno d'oggi.